Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Quanto valgono per i brand post, condivisioni e recensioni? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Nasce l'economia della ricompensa, che premia i consumatori disposti a rispondere alle richieste delle aziende su siti e social network. Ne parliamo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Un sistema questo agevolato dalla crescita dell'e-commerce e dalla diffusione di smartphone e tablet. Cogliamo allora l'occasione per fare il punto sul fenomeno delle vendite online. Focus sui trend dedicato infine ai consumi orientali, quando Cina, India, Giappone ma anche paesi emergenti, per citarne uno il Kazakhstan, fanno tendenza. Prima però ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. Torna la giornata della colletta alimentare, giunta quest'anno alla sua 16ª edizione. Sabato 24 novembre, in oltre 9.000 supermercati sparsi in tutta Italia, 130.000 volontari della Fondazione Banco Alimentare Onlus inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che verranno poi distribuiti a più di 8.600 strutture caritative, mense per i poveri, comunità per minori, banche di solidarietà e centri d'accoglienza. Va in scena a Parigi la storia di Van Cleef & Arpels. Fino al 10 febbraio la celebre Maison, fondata nel 1906, porta 400 gioielli, documenti d'archivio, disegni, fotografie e locandine di vecchie campagne pubblicitarie al Musée des Arts Décoratifs. Si terrà a Milano dall'1 al 9 dicembre l'Artigiano in Fiera, la mostra mercato dedicata all'artigianato di qualità. La manifestazione radunerà quest'anno quasi 3.000 espositori provenienti da 110 paesi nel mondo. Tra le novità di questa 17ª edizione, il Festival del Cake Design, dedicato agli artigiani della pasticceria. Il Natale 2012 segnerà un nuovo calo della propensione a spendere per i regali. Lo rivela una ricerca condotta da Ipsos per i bei annunci, che boccia i regali costosi e inutili e promuove invece quelli usati o riciclati, purché utili. È dedicata al simbolo della rivoluzione musicale degli anni 60 la mostra Rewind, 50 anni di Fender in Italia, allestita fino al 3 febbraio al Museo della Musica di Bologna. La mitica chitarra rock, amata da big come Jimi Hendrix e Bob Dylan, viene rivisitata nelle opere di una ventina di artisti italiani e stranieri, e una serie di fotografie storiche ricostruiscono gli ultimi 50 anni di musica italiana. La borsa della spesa. Mi piace. Posta commento. Scrivi un messaggio. Condividi filmato. Taggo una foto. A cosa stai pensando? Commenti. Segnala evento. Resta collegato. Rispondi al messaggio. Inizia a chattare. Suggerisci amici. Recensioni, condivisioni, post, iscrizioni alla newsletter. I consumatori possono essere una vera e propria agenzia pubblicitaria per i brand. Ecco perché, per stimolare le loro azioni su siti e social network, c'è chi ha pensato di ricompensarli con un sistema di punti virtuali trasformabili in buoni acquisto e premi. Si tratta di Beans, una startup che partirà entro fine anno, una piattaforma che permette di premiare i fan dei brand con fagioli virtuali da convertire poi in buoni da spendere all'interno del network. Una vera e propria economia della ricompensa, ci dice Marzia Moretti, country manager di Beans Italy. La vera novità, che piacerà sicuramente molto ai clienti, e che si possono fare azioni senza spendere denaro, per cui uno si può iscrivere a una newsletter e può guadagnare dei punti, dei beans, può entrare in un negozio e fare check-in piuttosto che fare la scansione di un codice a barre di un prodotto, rispondere a un questionario e fare, diciamo, azioni che non comportano un acquisto da parte del cliente, e quindi anche in questo caso guadagna dei beans. Oppure semplicemente acquistando dei prodotti e guadagnando beans. Quindi anche nei negozi fisici, non solo online? Assolutamente, la vera novità per la quale stiamo riscontrando un grande interesse da parte dei retailer